www.radio3pod.rai.it. Sì, buongiorno. Niente, ieri facendo benzina mi sono dimenticata la pompa. Attaccata. Già. Succede. Per questo c'è Zuritel, l'assicurazione diretta del gruppo Zurich che c'è quando ne hai bisogno. 848-833-888 o zuritel.it. Later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli le luci della ribalta non si sono mai accese, il confessionale elettrico della Cappella di San Gallo lancia un monitor. Aia! Ops, rettifico, un monitor. Salve, sono il confessionale elettrico della Cappella di San Gallo. Spiela. Oggi, come saprete, è la giornata della moda qui in fabbrica e questo mi spinge a diventare improvvisamente un vecchio moralista brontolone. Spiela. Il mondo dorato della moda agisce da miraggio per migliaia di giovani galline senza istruzione provenienti dai quartieri più arretrati della fabbrica. Queste galline sono spinte a diventare sempre più magre a causa del sadismo di stilisti capponi che odiano il genere femminile e vogliono privare le povere pollastrelle delle loro grazie naturali. Oltre ai disturbi alimentari, le galline sperimentano droghe ammucchiate indecenti. La lobby dei capponi è pericolosa per i nostri giovani cristiani. Salvate le vostre figlie dalla lobby dei capponi. Sfera! Tutti i fedeli devoti a San Gallo non dovrebbero partecipare alla immonda sfilata che sta per cominciare. Sfilata! Sfilata! Sfera! Si accendono i riflettori sulla moda prêt-à-porter nella fabbrica di polli. In passerella le grandi firme del Fashion System e non solo. Come parla il pollo sbattuto? È una sfilata di galline. Mi parla come uno che presenta una sfilata, no? Ma sembra scemo. Il segreto di queste creazioni è nelle fibre sintetiche e naturalmente nei tessuti lavorati con le nuove tecnologie. E cosa dice nuove tecnologie? Popolano le tute argentate di cocco e gallina e tornano alla ribalta le tunichette leggere di Emilio Pulci. Galline anoressiche pronte al macello, ma che sfilata triste! Tutte le sfilate sono tristi, Drago. Tutte le sfilate sono fatte di galline anoressiche pronte al macello. Di che cosa ti lamenti sempre? Che non hanno assolutamente paura di affrontare il futuro che li attende e anzi lo aspettano con il sorriso della speranza e dell'ottimismo. Ma che sorriso della speranza e dell'ottimismo? Hanno tutte un'aria da funerale che fanno paura. Ma no, Drago, è il famoso broncio della modella. Il cosa? Il broncio! Il broncio della modella. È praticamente l'unica cosa che devono saper fare, lasciargliela fare, no? Le nozioni di primo di classe. Il broncio di Modella, da non confondersi con trancio di Modella, è detto in inglese model pouting e consiste in top model che spingono labbra in avanti e tengono sguardo fisso senza espressione, anzi con espressione piuttosto, come dire, incazzosa. Più Modella è brava in broncio e più famosa lei diventa. Un broncio ben fatto può far guadagnare a Modella tante, tante soldi. Voglio una zebra, una cavalla, una leonessa. Voglio cambiare specie, sono stufo della stessa. Voglio una mucca piena di mammelle, una capretta con le gambette snelle. Voglio una gatta, una civetta, una pecorina, una maiala e basta con la solita gallina. E chiedo ufficialmente di essere incrociato, chiedo ufficialmente di essere geneticamente modificato. Voglio far l'amore con tutte le specie del creato, chiedo di essere adottato, chiedo di essere allattato, chiedo di essere insultato e chiedo di essere frustato. Voglio essere un pollo in un mondo di sesso beato, voglio il mio sex dei polli, fortissimamente polli. La fabbrica di polli. Allora Pollastri, piaciuta la sfilata, eh? Ah, modelle, ma no, le modelle sono troppo magre, pollo. Vabbè, ma lo dici a me? Io l'ho pagato per fare lo speaker. Ho capito. Ma sai che me ne frega adesso, sono magro. Vabbè, calmati, scusa. Dove sono le galline che ha sfilato? Dove sono adesso? Cosa te ne frega, K? Ma tu non ti preoccupare. Beh, ma la maggior parte sono già al macello. Ma come? Ma già? Sì. Scusa, ma così magre cosa le macellano a fare? Eh no, eh. E loro le uccidono, poi però i corpi vanno al mercato nero. Ma come al mercato nero? Eh sì, il mercato nero delle modelle morte, no? Ma cos'è? Ma che schifo. Ma cosa che schifo? Beh, guarda che ci sono collezionisti che collezionano corpi di galline modelle famose. Ma dai, ma... Eh sì, ma come? Quelli comprano i corpi e poi li congelano. Poi io non so mica cosa ne facciano, ma... eh. Ma io non voglio nemmeno pensarci. Appunto. Però invece ci sono altre galline modelle, no? Che invece sono ancora vive. Se ti interessa la cosa, voglio dire. Vabbè, ma dove sono adesso? Ma capa, adesso dai. Sono tutte ristoranti per modelle, eh? E perché là è praticamente un vomitaio, eh? Come un vomitaio? un vomitatoio. Sì, le modelle quando vanno al ristorante vomitano sempre. Solo che di solito lo fanno da sole nei bagni, no? Beh, dove vuoi fare? Invece quel ristorante lì, che è un ristorante particolare, no? E lì loro possono farlo direttamente sul posto. Cioè, dove sono lo fanno, no? Tipo, sono al tavolo da mangiare e lo fanno sotto il tavolo. Ma come? Ma fa schifo. Ma perché? Sposta la tovaglia e... Ma no, no. Questo è il mondo delle modelle. Ma basta con queste cattiverie. Dai, anche le galline modelle sono persone come noi. Anzi, sono molto più belle di noi. Quindi hanno tutto il diritto di essere un po' eccentriche, diciamo. Giusto, giusto. Se uno poi vuole vomitare, è perché non può farlo. Ma già che ci sei, vomita anche tu per solidarietà, così siamo... No, no, cosa c'entra? Se permettete, io farei un omaggio alla categoria, eh. Ma quale categoria? Quella di quelli che vomitano? Ma no, quella delle modelle, no. Vabbè, ma che omaggio vorresti fare? Perché io ho già qualche sospetto. Ma perché? Quindi... Ma perché sono stati sempre, eh? Cosa io fare? Voglio dedicare una canzone a tutte le galline e modelle del mondo, no? Qui lo sapevo già. Ma guarda che è una canzone mica mia, eh. Lo so già. No, una canzone dei Kraftwerk, eh. Di chi? Dei Kraftwerk. Ecco. Dei Kraftwerk. The Model, no? E come fa? Ha successo quella lì, eh? Sì, come fa? Ma ti la ricordi, successo. No? Sì, ha avuto successo. I like to take her home, that that's understood. She plays a bit together, smile from time to time. It only takes a camera to the chain and mine. E qui sono i Kraftwerk, eh? I? Che cosa succederà adesso? Quali altre novità attendono i nostri intrepidi eroi nei meandri della terrificante fabbrica di polli? Dovete aspettare un lungo weekend prima di saperlo. Però trovatevi puntuali lunedì a mezzanotte su Radio 3 per i prossimi urticanti allestimenti de... La fabbrica di polli produce... Non chiude, non chiude mai. Non muore quasi mai.